le sais, c'est solo des contours, c'est le tour. Oui, elle vous a dit pas donné, la vostra forza est solo la divisa. Oui, non, tu l'aurais pu rompere i coglioni. Avete se fumati i cannoni. Spirri di merda. Se tu sei vivo, stare contro il muro e tutto mi perquisita tra il culo. Ma non ci dovete più rompere i coglioni. Avete fumati i cannoni. Tirri di merda. Guarda mi chiedi i documenti di danza dove cazzo ti presenti. Ti rispondo un poco male. Ai ai ai sono finito in tribunale. E non ci dovete più rompere i coglioni. Allora se fuma giù i cannoni. Spirri di merda. Spirri di merda. Spirri di merda. Merda. Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, occupazione ti ha dato un bel mestiere.